Sono Giovanni Lonardi della Politicometa. Purtroppo mi dispiace, ma devo dirvi che sta per iniziare la puntata di Geronimo e vi toccherà ascoltare la mia voce. Se solo fosse vero, Lulu se ne va sullo strappo che abbiamo visto e tutte le scritte sono per lui per terra. Non lo dico troppo forte. Amiche e amici del ciclismo e del Giro d'Italia, ma che dico amici, che dico amiche, dico compagni di scuola, parenti, semplici conoscenti, persone che ascoltano questo podcast perché sul treno c'è uno maleducato che non si è messo le cuffiette e gli tocca sentirlo anche a loro. Con questa introduzione che ho rubato da un altro podcast, lo stesso a cui abbiamo rubato la Pelacci Analytics, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Alvento in collaborazione con Shimano, dedicato al Giro d'Italia 2024 e dedicato alle scuole d'Italia. Ormai ci stiamo abituando, la puntata di oggi va in onda dalla classe terza B della scuola elementare F. Corridoni di Fano, che come tutte le classi, è bellissimo quando il giro arriva soprattutto nelle elementari perché addobbata ai disegni, questi sono dedicati alla pace, ma addobbata anche di cose che riguardano il giro. Nello specifico qui c'è un poster con la geografia del giro. Vi posso dire che la tappa di oggi è la tappa di confine tra gli arrosticini e la piadina. E non vedo l'ora, manca la figurina, ma così occhio dalla sagoma domani forse c'è la tappa del gin tonic, che tanto aspettavamo. Michele Pelacci, la stavi aspettando anche tu, no, la tappa del gin tonic? Preferisco un Moscow Mule, ma va bene anche un gin tonic, insomma, gin lemon, tutto va bene. Bella tappa oggi, ne parliamo subito, presentiamo gli altri. Ne parliamo tra un attimo. Una voce l'avete già sentita, l'avete sentita tremebonda, non so se adesso si è tranquillizzata un attimo, è quella di Marta Bacigalupo che ci ha introdotto questa puntata con la sua emozione. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sempre più canoro questo podcast e questo è il motivo per cui veniamo al Giro d'Italia. Non so se vuoi cantare anche tu, Leonardo, sarai molto stupito, evito, ma sentiamo. Per il bene dei nostri ascoltatori. Ciao a tutti, buonasera. Non è la prima vittoria francese in questo Giro d'Italia. È la troisième. È la terza vittoria francese in questo Giro d'Italia. Sentivo poco fa giù in sala stampa grande allarme perché nessuno aveva una statistica su questa terza vittoria francese al Giro d'Italia. Cioè, quando nessuno aveva contato che erano tre. Quando era stata l'ultima volta, queste cose qua. Non lo sappiamo neanche noi. Non so se la Pelacci Analytics, ma non credo. No, purtroppo. Che poi ricordiamo che la Pelacci Analytics è guardare su Twitter se qualcuno ha fatto queste statistiche. Questa cosa ha un po' rovinato l'idillio iniziale, perché nelle prime 9 tappe, mi sembra, avevano vinto non solo, a parte il ripetente, diciamo, Pogacar, corridori diversi, ma anche di nazioni diverse e di squadre diverse. Ora questa cosa è andata un po' rompendosi, grazie a Parepentre e alla Philippe. Vabbè, ce ne faremo una ragione, Michele, che te devo dire. Nel frattempo noi ci lanciamo verso questa tappa che è stata piena di interesse, di novità, di felicità, di commozione, ma è stata altresì brevissima nella lunghezza della sua località di arrivo, per cui voglio sentire questo acrostico. Sono difficili quando sono lunghi o sono corti, quindi ieri avevamo Francavilla al mare, che ha avuto le sue difficoltà, oggi Fano. 4 lettere, però la fortuna è che una di queste 4 lettere comprende il nome del vincitore di tappa, quindi l'acrostico di oggi è finalmente alla Philippe, nocchiere onirico. Sai cos'è un nocchiere, Michele? Quello dei cavalli, no? Che lì. Diciamo che il comandante di una nave, il pilota, se si può dire, di una nave, e nel mio modo di vedere lui è il comandante di questa barca che è il Giro d'Italia, il comandante emotivo, colui che dà la direzione emotiva del giro, perché no, secondo me lui attribuisce proprio, mettendo il suo cuore, un valore emozionale a quasi ogni tappa del Giro d'Italia. Ma quindi quello dei cavalli è il cocchiere? È il cocchiere, sì. Comunque l'avevo pensato anch'io, se la cosa ti può consolare. In tal caso la tappa di oggi sarebbe arrivata a Faco e comunque l'acronimo avrebbe funzionato lo stesso. Cioè è comunque anche un ottimo cocchiere. Giuliano Alaphilippe ha frustato i suoi compagni di fuga in questa giornata, in questa tappa che... Uno in particolare non l'ha frustato letteralmente, in questa tappa che ha dipinto un po' un affresco di ciclismo che ci sentiamo di rivivere tramite le sillabe d'amore di Michele Pelacci. Quanti cavalli che aveva nel motore oggi la Philippe, eh? L'hai capita? Beh, insomma, passiamo oltre, come dire. Intanto, da Martin Sicuro, partenza di oggi, una notizia certa. Non so se l'avete capita, Martin Sicuro, notizia certa. È infelice. Infelice purtroppo perché la maglia nera, Jakobsen, Fabio, si ritira. Nei primissimi chilometri molti corridori tentano la fuga. Frase che si potrebbe usare quasi ogni giorno di questo giro, ma tant'è. Quella buona è composta da 38 corridori, tra cui Maestri, Alaphilippe, Quintana, Trentin, Narváez, Ganna, Hermans, Piti e Scaroni. Quello messo meglio in classifica generale è Ian Hirt a 5,57 da Pogacar. Altri uomini di classifica secondari, per così dire, entrati nella fuga sono Pozzovivo, Juanpi Lopez e Piganzoli, ma verranno riassorbiti. Chi invece non ne vuole sapere di venire riassorbito è lo strano duo Alaphilippe Maestri, che a circa 120 dall'arrivo crea la famosa fuga della fuga. Il vantaggio dei due arriva e si stabilizza attorno al minuto e mezzo. Dietro il gruppo di 36 si screma perché provano a inseguirli. A sorpresa, davanti resistono fino all'ultimo muro, Monte Giove, sul quale Maestri cede e Alaphilippe si invola da solo sul traguardo di Fano. Sull'ultimo muro si formano queste coppie all'inseguimento, Narváez, Hermans e poi Wijgren, Scaroni, arrivati sul traguardo in quest'ordine. Ma soprattutto vince una corsa a quasi un anno dall'ultima vittoria al Delfinato, proprio lui, Julien Alaphilippe. Proprio lui, sì, una vittoria molto bella che Michele ci ha appena raccontato e che io sintetizzo grazie all'ordine d'arrivo ufficiale. Ha vinto Julien Alaphilippe su Jonathan Narváez e Quinten Hermans. Quarto Wijgren, quinto Scaroni, poi sesto a un minuto e mezzo Trentin, che ha regolato un gruppetto che comprendeva anche Simon Clark, Lem Reise, Maestri, Mirko Maestri, appunto compagno di fuga così a lungo di Julien Alaphilippe, e Benjamin Thomas, o Benjamin Thomas, come voi preferite, che è arrivato decimo. Gli uomini di classifica sono arrivati a 5 minuti e 25 con tutta calma. Anche oggi la UAE ha lasciato andare la fuga per la felicità di un po' tutti. Maika ha preceduto Pogacar e poi tutti gli altri. A motivo di tutto questo, la classifica generale non è cambiata, quindi ancora una volta non vi leggo i distacchi di tutti i primi 10 perché non servono. Vi dico soltanto, se per caso ancora non lo sapeste, che Tadej Pogacar è in maglia rosa e ha 2 minuti e 40 secondi di vantaggio su Dani Martinez. Terzo è Geraint Thomas a 2,56, seguono Ben O'Connor, Tiberi, Bardet, Fortunato, Zana, Rubio e Arensman. Questi sono i freddi numeri. Passiamo invece ad analizzare la tappa con più calore, con più parole, con più aggettivi e con più carte. Le carte, i tarocchi della nostra giromanzia che Marta Baggicalupo anche oggi ci introduce estraendo un tema, una figura, cosa? Oggi questa carta, speravo che uscisse questa carta, sarà forse il pizzetto, sarà forse quell'inconfondibile aspetto luciferino, insomma, che oggi non poteva che uscire questa carta, che forse è tra le mie preferite, è il diavolo, perché il diavolo è vitalità, è ardore, è piacere, perché oggi Julien Alaphilippe ci ha detto che questa è una di quelle giornate per cui ama ancora correre, ama il ciclismo. Questa carta è istinto, anche perché ci ha detto che non aveva pianificato del tutto questa precisa giornata. E questa carta è gloria, e lo si capisce già dalla figura, diciamo, che ci mostra un personaggio in piedi su un piedistallo. Mi piace questo tuo quasi distacco nel dire un personaggio in piedi su un piedistallo, ma che personaggio e che piedistallo, Marta, per la giornata di oggi. Piedistallo che si è costruito, insomma, un piedistallo bello, bello alto, eh? Devo ammettere che personalmente questa vittoria di cui andiamo a parlare è proprio una che ricorderò molto, perché mi è mancato il fiato e mi si sono tagliate le gambe, e è stata una giornata bellissima, ma non l'è stata solo per me, nemmeno soltanto per il vincitore di tappa, ma per tutto il gruppo, perché abbiamo visto arrivare per primo ad esempio Trentin, e tra tweet e proprio manifestazioni di affetto abbiamo visto che è una vittoria che aspettavano in tanti, e in tanti sono felici. Julien Alaphilippe ci ha detto oggi che è proprio stata una di quelle vittorie alla vecchia maniera, diciamo, che gli è piaciuta, perché la giornata era adatta a lui, il tempo era bello, c'erano questi sali scendi, Ed è una giornata che ricorderà, e ha usato alcune parole, molte parole in italiano in realtà durante la conferenza stampa. Ha usato pazienza e resilienza quando gli chiedevano appunto di questa sua rinascita, e ha usato passione e grinta per il modo che ha avuto di correre. Sì, e in particolare sulla rinascita. Qualcuno gli ha chiesto: questa vittoria rappresenta la tua rinascita? E lui ha risposto: in realtà non ero mai morto. Ed è così, questa vittoria di Alaphilippe arriva alla fine di un periodo in cui, tra il Tour e il Giro di quest'anno, ci ha provato, non voglio dire tutti i giorni, ma quasi. Quante volte l'anno scorso l'abbiamo visto tentare, e quest'anno poi al Giro, no? Di trovare l'occasione giusta, di rodarsi, di mettersi alla prova e arrivare a questa giornata attraverso tanti piccoli e grandi fallimenti. Lui è tornato oggi a vincere alla sua maniera. Sembrava non fosse più il suo ciclismo, sembrava che il suo tempo fosse passato, forse non lo è ancora. Ma no, sembrava quasi fosse tornato indietro al tempo, perché l'Alaphilippe di questo Giro d'Italia sembra un po' l'Alaphilippe precedente ai grandi successi, quel corridore di cui tutti un po' ci siamo innamorati, no? Che attaccava ogni 2x3, che sapeva interpretare le corse con coraggio ma anche con una lucidità particolare. Oggi è stato, sì, folle nel suo tentativo, ma anche poi chirurgico nell'andarsela a prendere, nel scegliere tutti i momenti esatti, e sicuramente corre, almeno l'impressione che ci dà, e ho avuto l'impressione che anche lui condivida questa lettura, anche se non l'ha detto esplicitamente, è che sta correndo anche molto più libero, con una testa molto più sgombra in questo Giro d'Italia, e probabilmente è quello di cui aveva bisogno. Si è emozionato anche durante la conferenza stampa parlandoci, no? Io mi sono emozionato anch'io, perché poi mi guardava in faccia da un metro con una concretezza che non capita sempre, e più volte ha detto, cioè, ha argomentato un po' le sue risposte e poi ha detto: non so cosa dire. E anche lui probabilmente ha bisogno un po' di trovarle le parole dopo questa giornata. Non so cosa dire, però diceva, nel senso, diceva un sacco. Continuava a parlare, era molto espressivo, come abbiamo detto, nella sua comunicazione anche non verbale, no? I suoi occhi oggi raccontavano tanto di cosa rappresenta per lui questa vittoria. Michele, hai notato anche tu questa tensione emotiva, no? Assolutamente sì, ma la noto un po' dall'inizio giro, devo dirti la verità, perché lui ha un rapporto speciale con l'Italia, ha vinto qui il suo unico monumento, ha vinto questo primo mondiale, e da quando è a Giro d'Italia che lo guardo. Per esempio, Europa, arrivo di Europa, lui era sorridente mentre si toglieva gli abiti sudati, se ne metteva di caldi, sorrideva. Il giorno dopo, Fossano, quando ha vinto Tim Merlier, lui l'ho sentito urlare nella radiolina quando si apriva, no? Con un gesto qua sul petto, la radio, per urlare un fuck yeah, molto presente, molto contento. L'ultima cosa che volevo citare è l'arrivo di Rapolano Terme, in cui, pur avendo perso, mi sembrava lì, mi sembrava contento di correre questo giro, mi sembrava di contento di mettersi in gioco. E per un campione, la sua caratura, farlo e dire: no, ma sapete cosa c'è? Andate a quel paese, voi tutti quanti che mi avete portato al Giro d'Italia, è bello, è grandioso, è difficile essere più contenti per lui. Alaphilippe è partito per vincere questa tappa sull'ultima rampa, quella di Monte Giove, e lì abbiamo capito un po' tutti che sarebbe arrivato, perché poi il finale di tappa così tortuoso in questo budello di Fano era quanto di più adatto ci fosse alle sue caratteristiche. Narváez ed Hermans non sono riusciti a raggiungerlo, però l'ultimo a lasciare, suo malgrado, la compagnia di Alaphilippe dopo un lungo pomeriggio insieme è stato Mirko Maestri della Polticometa, grande protagonista di questa tappa. Non credo che Alaphilippe ce l'avrebbe fatta senza il contributo di Maestri. E Alaphilippe, subito dopo la linea d'arrivo, si è fermato, ovviamente l'hanno coccolato, asciugato i suoi massaggiatori, e poi lui costantemente si guardava intorno perché aspettava il momento in cui tagliasse la linea anche Maestri, perché voleva avvicinarsi e ringraziarlo per il lavoro svolto, per l'avventura vissuta insieme. Io ero lì, io e Marta eravamo lì, io ho messo il microfono vicino a loro due mentre si ringraziavano, mentre Alaphilippe ringraziava Maestri, ma anche Maestri ringraziava Alaphilippe. Sentiamo questi secondi, questi scambi, questo scambio tra loro, e poi una breve intervista proprio con Mirko Maestri dopo questo momento così bello insieme ad Alaphilippe. Grande, grazie. È stato bellissimo. I will remember this day, yeah, all my career. My life. grande. Foto. Mirko ha detto alla Filippo che ricorderà questo giorno per tutta la sua vita, e tu? Anch'io, tutta la mia vita, la mia carriera. Lui è un campione, non abbiamo bisogno di spiegarlo, e per me è stato bellissimo, insomma, anche avere i ringraziamenti da lui è venuto la pelle d'oca, nonostante sia finito come una carogna. Hai detto il giorno più difficile della tua carriera? Sì, diciamo che è stata una tappa impegnativa al limite proprio delle mie caratteristiche. Sto bene, questo Giro d'Italia l'abbiamo preparato bene con la squadra e penso sia uno dei giri dove sono arrivato meglio. Credo di averlo dimostrato, anche se purtroppo non ho portato a casa, insomma, una vittoria, un podio. Ma questa intesa tra te e lui da dove nasce? Perché è già la seconda volta in questo giro che attaccate insieme, cioè lui ha raggiunto te l'altra volta. Non lo so, facciamo che va bene così, nel senso che comunque è stato fantastico e, come abbiamo detto, è stato bello per tutti e due, lui ha vinto e lui è un grande campione e va bene così, insomma, io ci riproverò. Sei stato bravissimo, grazie. Grazie. E Mirko Maestri si è beccato più di un chapeau da parte di Alaphilippe, che ha detto appunto che avrebbe assolutamente meritato anche lui la vittoria e che sono andati molto d'accordo, che quindi non pensava che avrebbe passato questa giornata fuori con lui. Si è addirittura corretto nel pronunciare, l'aveva chiamato Marco, ha detto no, Mirko Maestri. Quindi è proprio, credo che sia una cosa che ha segnato entrambi. Sì, ho notato anch'io con grande attenzione quel momento in cui si è corretto, perché non te lo aspetti, capita di sbagliare i nomi, lo facciamo tutti, figuriamoci un corridore dopo una fuga di questo tipo, invece ho detto con Marco Maestri, poi ha tentennato un attimo e ho detto no, con Mirko Maestri. E nel fare tutti i complimenti ha fatto il complimento più semplice di tutti, che è: lo rispetto molto perché facciamo tutti questo lavoro, che è un lavoro molto difficile, per cui c'è stato anche un po' un crollo di quella barriera che tante volte distingue la nobiltà dalla plebe del ciclismo. Non ce ne voglia Mirko Maestri, ma è chiaro che il palmarès sta lì a dimostrarlo, e quindi ringraziamo Giuliano Alaphilippe anche di questo gesto così di orizzontalità. Ma cos'è che poi mette insieme la nobiltà e la manovalanza nel ciclismo? È l'interpretazione dello sport, che è la stessa di questo sport in Alaphilippe e in Maestri, cioè loro sono due tipi di corridore con le loro caratteristiche completamente diverse, che però non lasciano nulla di intentato, no? E lasciano tutte le energie che hanno sulla strada e si danno al pubblico e si danno ai compagni di fuga, anche quando questo significa non vincere in prima persona, no? Perché intravedono una causa più grande di se stessi nel loro correre, che può essere la squadra, può essere l'idea della fuga in sé, no? Può essere l'utopia, lo spettacolo, il pubblico, no? Questi sono corridori che danno se stessi al pubblico. E in questo, appunto, nonostante la differenza di palmarès, non ci sono due corridori forse più diversi, o ce ne sono pochi, di Alaphilippe e Maestri, oggi e anche qualche giorno fa sono stati uniti dal loro modo di interpretare questo sport. Abbiamo citato l'ultima vittoria di Alaphilippe, che è del finato dell'anno scorso, corsa World Tour. Beh, Mirko Maestri ne ha vinta solo una di corse, livello punto 1 superiore, una cronometro al Tour of China 6 anni fa, e oggi non ha nemmeno fatto il suo miglior piazzamento finora al Giro d'Italia, che era un sesto posto alla volata di Salerno l'anno scorso. Ma secondo me Alaphilippe, sempre per tornare sull'apporto, no, tra loro due, è stato anche molto intelligente, perché quando poteva staccarlo magari su diverse salite ha detto no, Maestri potrà tornarmi utile, più pesante, più grosso come corridore, si sta bene in scia di Mirko Maestri, immagino. In un certo senso l'ha sfruttato Maestri, però nonostante questo Maestri non aveva nulla contro la vittoria della Filippo, anzi era contento per la vittoria. Si sono dati i cambi comunque regolarmente, non è che non gli ha certo succhiato le ruote alla Filippo. Assolutamente, però sapeva Maestri che all'arrivo, se fossero arrivati, non era certo il favorito, e nonostante questo ha voluto lo stesso dare una mano al compagno. La definizione, la sintesi di tutto forse l'ha data proprio alla Filippo, definendo questo pure cycling, ciclismo puro, ha detto lui. Sì, anche se l'abbino a una definizione bellissima che ha dato invece Tadej Pogacar di questa tappa, di questo percorso, soprattutto l'ha definito not so boring. A suo modo, è una definizione calzante. A suo modo, effettivamente, non è stata in alcun modo una giornata noiosa. E visto che l'ho nominato, vorrei solo dire che si sono salutate in conferenza stampa in un modo che mi ha fatto morire. Si sono detti, ciao bro, ciao capo. Eh sì, perché sappiamo che tra l'altro anche Alaphilippe è un grande appassionato di musica italiana discutibile. E abbiamo parlato dei due fuggitivi, dei due animatori di questa tappa, ce ne sono stati tanti altri di attaccanti. Prima Michele ha riepilogato bene tutto quello che è accaduto. C'è stato ancora una volta, non è la prima volta che a questo giro nominiamo il gioco delle coppie, l'ultima volta abbiamo parlato anche di scambio di coppie che non è avvenuto, non è avvenuto nemmeno oggi, le due coppie sono state belle monogame e sono andate fino all'arrivo. La prima coppia era quella composta da Narváez e, ricordami Michele che ho un buco, Quinten Hermans, grazie mille. Subito dopo di loro è arrivata un'altra coppia, Scaroni e Valgren, e loro all'arrivo anche loro si sono complimentati e in un qualche modo abbracciati a vicenda. Li abbiamo incontrati entrambi sulla linea d'arrivo e sentiamo le loro parole. Cristian Scaroni, la prima cosa che ti ho sentito dire è: sono dei matti. Ma perché in piana facevo davvero fatica a seguire i passistoni come Benjamin, Valgren, anche Narváez, tiravano veramente come dei folli in pianura. E sapevo che in pianura questi ritmi faccio un po' più fatica a tenerli perché è un po' il mio peso, un po' la mia caratteristica, è un po' così. E in salita invece ho risposto bene e mi manca ancora qualcosina per raggiungere la condizione nella quale ero, però sembra che adesso forse sto un po' ingranando. Oggi ho risposto bene e adesso concentriamoci per le prossime tappe. Oggi era una tappa a cui tenevo far bene, non ho deluso. Ti stai sentendo un po' matto anche tu a infilarti nelle fughe con tutta questa cattiveria? Ma sono già 3 giorni che andiamo a velocità folli. Ho visto la prima ora, avevamo i 56 se non sbaglio di media. È davvero difficile. Questo abbraccio con Valgren che ho visto all'arrivo, cosa c'era? Ma lui ha capito che ero a blocco. Io gli ho detto andiamo a tutta, diamo tutto quello che abbiamo. Avevo anche un po' dei crampi. Lui è stato onesto, io anche, c'è stata collaborazione fino agli ultimi 200 metri e così. Poi un campione come lui da parte mia avrà sempre rispetto, poi anche lui tirava come un folle, quindi. Grazie mille, complimenti e buon recupero. Grazie. Michael, super quick, that hug with Scaroni at the end, you were congratulating each other, what was it? Yeah, you know, we kind of knew first place was gone anyway with Alaphilippe, what arrived from him, and we just tried to catch the two guys in front, but we were both super tired, you know, and neither satisfied anyway. Yeah, you can only be satisfied when a guy like Alaphilippe wins like this, you know. That was some ride. In the end it was a good day. I proved myself again, I'm strong, and then I'm back where I belong. Nice, congratulations. Thanks. Ciao. Dunque, dopo aver parlato con Scaroni, sentite che riprendo anche con Valgren proprio questo gesto di complimenti reciproci che si sono fatti i due, e Valgren dice che di fatto sapevano che la vittoria era andata quando se n'è andato alla Philippe, ma stavamo cercando di riprendere i due davanti, ma eravamo super stanchi. Me l'ha ripetuto anche un'altra risposta che non sentite. Io gli ho detto stanchi, però ma soddisfatti, perché Valgren ancora una volta quest'oggi era super sorridente all'arrivo, nonostante uno pensi la vittoria gli è sfuggita, e invece era felice. E lui dice una cosa molto bella, dice: si può essere solo soddisfatti quando uno come Alaphilippe vince così. È stata una gran corsa e alla fine è stata una bella giornata, ho dimostrato a me stesso che sono forte e che sono tornato dove mi spetta. Molto bello, e quindi una giornata in cui quasi tutti i corridori avevano qualcosa di cui sorridere. Questa è una cosa che succede nel ciclismo e non in molti altri sport, che alla fine della competizione anche chi ha perso o chi non ha vinto ride, sorride, felice. E forse anche su questo tema della felicità, non lo so, ha qualcosa da dire il nostro sensei giapponese in collegamento da dove poi? Da Osaka, da Tokyo, dove abita? Kyoto il nostro... forse? Sendai. Sendai, allora il collegamento è pronto, ascoltiamo come vuole sintetizzare anche lui questa bella giornata al Giro d'Italia. La parola del giorno. 今日の一言. Felicità. 幸せ. 幸せ. Michele, sei felice di partecipare a questo esperimento glottologico del nostro podcast? No, e vi odio. Ci odi, ma ringraziamo Shimano che invece ci ha dato questo sensei e ci permette di metterti alla prova, perché tu sei il più giovane, quello che deve più imparare, per quello ti portiamo nelle scuole. a fare queste registrazioni, così che ti senti anche un po' più predisposto al, come si dice, all'apprendimento. Ora la lista delle parole giapponesi imparate finora la segno, sui muri delle scuole attraversate. Scrivila sui muri, sì. Non in ideogrammi, non ti chiedo anche di scriverla in ideogrammi, scrivila come ti prendi gli appunti tu, come le pronunce dei nomi dei corridori. Felicità. Shihalafe. Bicicletta. Genji. Felicità. Oddio, già me la sono scordata. Oddio. Ma l'hai appena detta. Lo so. Questa è memoria a breve termine. Shihalafe. No, ma io mi chiedo, dopo felicità la prossima volta ci sarà bicchiere, vino, panino. Immagino, mi aspetto che siano queste le prossime parole da tradurre dal giapponese. Ma diciamo due cose sulla maglia rosa di questo Giro d'Italia, che anche oggi non si è presentata in conferenza stampa. Ha mandato il suo fratello gemello calmo e rilassato, Tadej Pogacar, che da Napoli in poi sostituisce la versione precedente. Sto scherzando, Tadej Pogacar oggi c'era con la sua maglia rosa, col suo naso bello colorito. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un segno di raffreddore in corso. In realtà, secondo me, è proprio il segno dell'abbronzatura. Infatti si vedono invece anche i segni delle stanghette degli occhiali bianche. O può anche essere che fosse ubriaco di grappa, che fa venire il naso rosso. Ci avviciniamo, e fa venire anche zona. La felicità. Per cui esatto, forse ubriaco di felicità per questo virus di gioia che ci sta coinvolgendo un po' tutti. Ma al di là di questo, comunque abbiamo notato una certa rilassatezza da parte sua, anche perché la corsa oggi, a parte un tentativo della Bahrain di ravvivare il ritmo poco prima dell'ultimo strappo, non è stata difficile da controllare. Sì, anzi, Tadej si è detto addirittura, il fratello gemello di Tadej ha detto che gli è andato benissimo, perché così ha detto bene che tirino un po' loro, così ci siamo potuti riposare. Sì, si è potuta riposare la UAE, che abbiamo detto all'inizio ha lasciato andare anche questa fuga, ma non essendoci molto altro da aggiungere sulla questione maglia rosa, lotta per vincere il giro, approfondiamo un aspetto che non conosciamo o non conoscevamo fino a oggi di Tadej Pogacar, grazie alla rubrica, l'altra rubrica che Marta cura per noi, il Pogacario. Marta, che ci fai scoprire oggi su di lui? Ma in realtà oggi non è su di lui che scopriamo qualcosa, ma è sulla sua famiglia. Infatti, rubacchiando da colleghi giornalisti sloveni, ho scoperto che il papà di Tadej, Mirko, il signor Mirko, non maestri, è un appassionato, è sempre stato appassionato sin da giovane di scrittura, in particolare di poesia. Anzi, Tadej in un'intervista dice proprio "That was his dream", quindi insomma che sarebbe stato proprio il suo sogno dedicarsi a quello invece poi della professione che ha svolto. E addirittura, anzi recentemente, però pare che abbia ripreso a scrivere. Infatti sono usciti alcuni, in particolare un editoriale sul giornale sloveno Delo, chissà mai se si dirà così, in cui addirittura incitava, sperava nel pubblico, chiedendo di non estremizzare le tifoserie, quindi richiamando un po' a una pace universale, quindi di non creare troppe dicotomie tra pace universale, come c'è, mi ricordano, in questa aula scolastica ben tutto segnalato. Infatti diceva tifiamo per la Slovenia, che è già abbastanza piccola, quindi non dividiamoci oltre. Fine del Pogacario. Te lo dice Franco, che è sempre Franco. Ciao amici, ciao follower. Bentornati all'angolo di Franco in compagnia di quel Franco. Quale Franco? Questo Franco, io! Forza Franco! Allora, oggi mi avete inondato di messaggi con tutti questo messaggio. Franco! Ho voglia di viaggiare, ma non viaggio. Come mai? Come mai? Volete la risposta? Volete davvero conoscere la risposta? Ve la do la risposta! Ma prendete i fazzoletti, perché Franco, neanche oggi, non fa sconti a nessuno. Grazie, Franco! La risposta è... non ne avete voglia, questa è la mara verità. Viaggiare è faticoso, viaggiare è preparare la valigia, viaggiare è preparare tutti quei prodotti in quella bustina trasparente che poi te la controllano i controlli, disfare la valigia quando torni, ripreparare la valigia. Il tuo problema è che sei pigro. Hai detto pigro? Sì, sì, pigrizia. Ho detto pigrizia. Allora, caro follower, ascoltami bene, vieni qua. Eccoti la motivazione del giorno. Seguo sempre i consigli di Franco. Di adesso a te stesso: io non sono pigro come quella gente che passeggia sul tapirulà. No! Io posso cambiare il mio destino. Io viaggerò nonostante quel pulmino che mi trasporta sull'aereo e carico di gente che ti alita addosso. Costi quel che costi. Costi quel che costi. Bene. Adesso Franco ha risolto anche questo problema e i voli internazionali sono salvi grazie a me. Grazie a chi? Grazie a Franco. Fantastico, Franco. Vi do appuntamento al prossimo podcast. Quale podcast? Questo. Quello di Franco. Forza, Franco! Non temete, Franco è dietro l'angolo e ritorna! Ma quindi Franco capita proprio a proposito, giusto ieri sera... È dietro l'angolo. Esatto, parlavo... Io ho paura. ...col dottor Kautz che diceva che non ha più voglia di viaggiare, che figurati prendere l'aereo è troppo stancante, ma meno male che è arrivato Franco! Non credo che mi comincerà. Ma poi ho come l'impressione, non so se è anche la vostra, che Franco dica sempre la stessa. Cioè, alla fine il suo consiglio è solo: siete pigri, prendete e andate. Che motivatore, chi sono tutti questi suoi follower? Questa sua groupie che interviene in questa vocina, che secondo me è quella che anche spinge i corridori quando sono in fuga. No, si allarga sempre di più, cioè sta diventando il suo podcast, sì, questo. Sì, a un certo punto ci faremo da parte. Ma poi non ho capito perché quando ti dà la motivazione devi prendere i fazzoletti. No, è vero, questo non l'ho capito neanche. Per segnartelo, perché ti commuove, talmente forte la sua motivazione. Non lo so. Michele, hai un'idea? No, però insomma, grazie a Franco i voli internazionali sono salvi e va bene. Noi però abbiamo girato luoghi molto più prossimi a noi, diciamo. Sì, senza prendere un aereo, semplicemente col nostro van, minivan di nome. No, io non do nomi ai mezzi a motore, perdonatemi. Non mi avrete mai su questa cosa. E abbiamo raggiunto anche un luogo che io non pensavo che avrei mai raggiunto nella mia vita, grazie al Giro d'Italia. Niente meno che il paese dei Balocchi. L'abbiamo trovato, è stato un lungo inseguimento, abbiamo trovato il presidente. Ero lì comunque lungo la corsa a vedere passare i corridori, dimmi. Ma i corridori passano tra due ore. No, ho visto che eri già pronto. Ero già pronto perché noi siamo sempre operativi. Presidente di? Associazione Culturale Verde Vivo. Ti chiami? Io mi chiamo Giuliano Marino. Giuliano, piacere. Avevamo questo dubbio. È bellissimo questo Pinocchio gigantesco che pedala. Questo difatti è il prodotto di una... associazione che sono l'associazione che fa ogni anno il paese dei Balocchi e questo è un loro simbolo che tutti gli anni viene comunque messo a disposizione e addobba l'area del paese dei Balocchi dove si fa l'evento nel mese di agosto. E che evento sarebbe il paese dei Balocchi? Il paese dei Balocchi è un evento che dura una settimana nel mese di agosto in cui ci sono varie attività molto sentito e molto partecipato da tutti gli abitanti di Balocchi, sia per quanto riguarda l'addobbo, ma anche per quanto riguarda tutto quello che è inerente alla favola di Balocchi, dalla balena a tutti i giochi e tutto quanto, quindi è un momento molto, molto sentito a Balocchi. Quindi abbiamo trovato il paese dei Balocchi. Il paese dei Balocchi, quello che tutti cercavano, ecco, è qui. Ma Lucignolo dov'è? Lucignolo deve essere sparso da qualche parte, perché bisogna stare attenti. Io qui c'ho Giordano che... È uno degli amici che ha partecipato all'allestimento e ha partecipato... Parlando canti popolari, canti sul ciclismo. Canti popolari? Sì. Ma sul ciclismo, per esempio? Ma ne vogliamo accennare uno insieme? Io non... Aspetta, dai, non... Guarda, la cosa c'è, lo sa. C'è una Elisabetta lo sa. Elisabetta? No, non Elisabetta. No, sapeva le canzoni cantavano. È quella ragazza là che fanno, c'è un coro di voci che partecipano. Vabbè, ma non ci credo che voi non sapete accennarci un canto popolare. Lui è un bravo cantante. Anch'io sono un bravo cantante, facciamo insieme. Lui ha partecipato anche a qualche festival canoro. Mauro, vediamo. Neanche Mauro ci sa accennare un canto popolare. Mentre arriva il coro, una domanda su questa balena. io vivo in Islanda, sì. È un paese famoso per il whale watching, le balene vere. Sì. Qua che balena avete a Bellocchi? Ah, le balene qui, viene. La balena del paese dei Balocchi, la balena più grossa d'Italia. Ma è in legno, come la fate? È bellissima, è stata anche a Torino la Fiera del Libro, bellissima. Ah. Va in tutte le città, è lunga, in mezzo. E adesso dove sta? È a riposo del campanile. Sì, non l'abbiamo potuto portare. Però ci sono dentro 20 bambini e c'è uno Geppetto che gli racconta le storie di Pinocchio. Ma l'avete fatto un gemellaggio con Collodi, insomma? Come no? L'abbiamo fatto con Collodi, come no? Perché noi qui al Paese dei Balocchi facciamo un sindaco, ogni anno facciamo un sindaco diverso. Il sindaco del Paese dei Balocchi. Balocchi? E chi è quest'anno il sindaco? Adesso non me lo ricordo. Come non me lo ricordo? Aspettiamo le elezioni. No, è già stato eletto. È già stabilito. È vero. E ci sarà un nuovo sindaco. Raccontami qual è la canzone popolare sulla bicicletta, che ieri ne hai detto una. Ci hanno detto che lei conosce una canzone popolare sulla bicicletta. Bellezza in bicicletta. Cantiamola. No, io adesso non la so, poi sono stonatissima. Chi è quella richiamo? Ragazza che del coro, che è quella lì sicuramente? La Stefania Bernabucci. Stefania qua. Ma non c'è. Sì, è arrivata. Dov'è la Stefania? Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere. Se no la canto io, non c'è problema. Sì, ma anch'io sono pronto. Abbiamo fatto una richiesta troppo difficile. Dobbiamo cantare noi. Allora, facciamo così, la cantiamo noi e voi ci dite se va bene. Però non mi ricordo il testo. Dove vai? Bellezza in bicicletta. Poi dopo cosa dice? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor. Le gambe snelle, tornite belle, ci hanno già messo la passione nel mio cuore. Madonna. Viva il giro! Viva! Viva il giro! Con chi siamo? Marco. Siete voi? Noi siamo un gruppo di ragazzi che ci chiamiamo Caffè Colombia. Ma perché siete tifosi di Lucio Herrera? No, ma di Ivan Cordoba, perché in realtà il suo nome è nato perché noi parliamo di sport H24 e quindi abbiamo detto... 24 su 24, sì, anche nel sonno. Anche nel sonno, chiedilo a lui, lui si addormenta guardando le gare, guardando quello che c'è, quindi... arrivano audio ogni ora del giorno e della notte, chi è sveglio a turno a guardare chi il basket, chi il ciclismo, chi si registra il golf, un podcast praticamente. È un po' un podcast. Cioè, voi siete un podcast vivente. Sì, esatto. Beh, dopo attivo, sì. Abbiamo la nostra pagina, il nostro canale Twitch, YouTube. Allora, la domanda nostra è: che famo a Fano? A Fano, allora, oltre tutto il patrimonio culturale che qua ce n'è parecchio. Cosa fare? Bere una moretta, se non l'avete ancora fatto. Questo è d'obbligo. Cioè, arrivate giù al porto di Fano, in centro, chiedete una moretta. Quindi sarebbe, mi va un caffè, prendo una moretta. Esatto. Spiegaci, perché di solito chiedo una Moretti? Spiegaci la differenza tra le due. Allora, la Moretti, lo sai meglio tu di me, è una birra. La moretta è di l'unica cosa che ha in comune con la Moretti, è l'alcol. Esatto, perché è un caffè... Che comunque ci interessa. Che mi interessa, è un caffè corretto. Interessante. Esatto, molto buono, che è tipico di Fano, perché leggenda narra che i pescatori andando in mare la notte per scaldarsi e per rimanere svegli univano le due cose, l'alcol e il caffè, e una scorza di limone, quindi è un mix di tre liquori. Sono rum, brandy e liquore d'anice. Scaldati, caffè, scorza di limone, però la particolarità è che si formano appunto questi tre strati, la crema del caffè, il caffè e il liquore, che dopo lì è a interpretazione di chi beve, c'è chi lo mischia, c'è chi non lo mischia, però ecco sì, dà tutto il calore che serve. Io da appassionato di caffè dopo la vado a provare. Ma mi scrivevate che è morto a Fano Annibale, ma quell'Annibale? Il fratello, Asdrubale. Il fratello. Si chiamavano Annibale e Asdrubale. Che bello. Annibale e Asdrubale. Come i parepentre. Esatto. Erano i parepentre ma con gli elefanti. Con gli elefanti. C'è stato, sì, durante la seconda guerra punica, se non sbaglio. Annibale lo aspettava in Puglia. Lui è passato per la Croazia, ha attraversato qua il mare e c'è stata la battaglia del Metauro, famosa battaglia del Metauro, in cui... qua è famosa almeno, cioè quando agli elementari ti insegnano... Il piccolo borgo qui vicino a pochi chilometri di Barchi nasce perché lui si chiama Barca, credo, come Barcellona, ci ha dato il nome sia a Barcellona che a Barchi probabilmente. Ma chi è Annibale? Annibale. Ah, di cognome? Era Annibale, il signor Annibale Barca. Comunque Annibale, cioè Barchi c'è anche in Val Trebbia, dove peraltro è passato Annibale, scusate. Bene, andiamo a cercare questa moretta? Sì, mi conviene. Sì. Ragazzi, buona tappa. A voi, grazie, buon giro. Ciao. Grandi. Ciao. Ciao. Io ho accolto il suggerimento dei nostri amici e ho bevuto una moretta prima di iniziare la registrazione, che è il motivo per cui sono così energetico, perché è davvero una bella botta di... Peraltro ha minacciato che ne vuole bere un'altra appena subito finiamo, dopo. Sbrigatevi finiamo a dire le vostre cose, che voglio andare a berne un'altra. Possiamo chiamarlo il bombardino del centro Italia? No, a me più che altro ha ricordato il Barrachito, che è un altro caffè energetico che ho bevuto alle Canarie qualche tempo fa, molto buono. A me non l'ho bevuto, ma dalla ricetta mi sembrava un Negroni essenzialmente, cioè un Negroni col caffè praticamente, per cui magari gli chiedo una moretta senza caffè, si può? Credo di sì, ci fanno i dolci anche, mi ha detto il titolare del caffè Cavour, che se non sbaglio è stato il caffè che poi ha ideato questa moretta. Ma quando finiamo di registrare andiamo ad approfondire tutto questo e anche molto altro, ma facciamo un passo indietro, andiamo a questa mattina, perché abbiamo fatto diversi incontri in quel di Martinsicuro e cominciamo da un corridore giovane della Ineos, compagno di squadra di Geraint Thomas. Stiamo parlando di Magnus Sheffield. Questa è la prima parte della chiacchierata con lui, che vi traduciamo subito dopo. But let's record it because you said it perfectly. Buongiorno. Buongiorno. Where did you learn it? It's not hard after the first week in the Giro. Okay, Magnus Sheffield, you speak many languages. How many languages? I only speak too fluently, but I can speak a few key words in quite a lot of other languages. And you are half Norwegian and half US, no? Mm-hmm. What is your Norwegian part and what is your American part? That's a good question. I think I feel very half and half. To be fair, like I do feel very American, but then also parts of me, like I'm still very proud to also be Norwegian. So I think this is quite hard. Maybe like some of the food combinations I have are quite Scandinavian, or also like the things I like to do in my free time. But I think, I feel very 50-50. Give me an example of this Scandinavian food that you love. Oh, probably the brown cheese and caviar. Okay, caviar. Love caviar. It's like a Norwegian toothpaste. Ora, come spesso capita, si inizia parlando di lingue, la chiacchierata con Sheffield inizia con un buongiorno e gli chiedo da dove viene l'ottima pronuncia dell'italiano. Lui dice di averla imparata nella prima parte del giro, ma in realtà glielo chiedevo perché il suo addetto stampa, Gene Smith, mi aveva detto che Sheffield parla un sacco di lingue. Quindi gli ho chiesto questa cosa e mi dice no, ne parla bene due, ma conosce un po' di parole chiave in un sacco di altre lingue, chiaramente. Le due sono ovviamente l'inglese e il norvegese, e quindi gli chiedo cosa c'è di norvegese e cosa c'è di statunitense in lui, che è figlio di genitori, uno norvegese e uno statunitense. E lui dice, bella domanda, a essere onesti mi sento davvero una persona metà e metà, sono molto americano ma anche molto orgoglioso di essere norvegese, è difficile a dirsi, magari qualche combinazione di cibo che amo è più scandinava, e forse anche le cose che amo fare nel mio tempo libero, ma in generale mi sento davvero 50-50. E quindi inevitabilmente gli ho chiesto qualcosa di più sul cibo scandinavo e lui con un oh alla Homer Simpson dice di amare il brown cheese. Sono andato a cercare su Wikipedia, è il brunost, che è una specie di dolce caramelloso, e di adorare il caviale, che chiamano con questo splendido soprannome il dentifricio norvegese. E quindi, tornando agli Stati Uniti, gli ho chiesto invece un po' come ha cominciato, visto che lui viene da una regione non tipica per i corridori statunitensi, che è lo stato di New York, nello specifico viene da Pittsford. I started riding a bike as soon as I could walk, and it was just something that I did with my family along the canals. Yeah, we also did some trips like the Birkebeiner in Norway. I met the August, my teammate AJ. His father owned a bike shop and he invited me to a cyclocross race. And that's really how I fell in love with cycling. And then from there I started racing mountain bikes, cyclocross, road cycling, and it really just snowballed from there. No football or baseball? I did also play quite a lot of other sports growing up, like football or soccer, we call in the US, as well as baseball, swimming, ski racing. I did. And you support any football team? No, I mean American football, of course, not... The Bills, Buffalo really? Bills, yes. Oh. Do you support the transfer of Stefan Diggs? Diggs was one of my favorite players, so I'm still a bit hurt by this, but I think the most important thing is to hold on to Josh Allen. Sono sempre andato in bici da quando ho imparato a camminare, dice Sheffield, è una cosa che facevo con la mia famiglia lungo i canali e abbiamo anche fatto viaggi come questo che dice in Norvegia, ma perdonatemi, non l'ho trovato, il Birkebeiner, se qualcuno mi aiuta a trovare di cosa si tratti meglio. E poi dice che ha incontrato gli August, ovvero il suo compagno AJ e il padre di AJ August, che ha un negozio di biciclette a Pittsford. L'ha invitato a una gara di ciclocross, è così che si è innamorato del ciclismo agonistico, ha iniziato mountain bike, ciclocross, strada ed è cominciata come una valanga, dice. Al che gli ho chiesto se abbia fatto anche sport tipici statunitensi come il football o il baseball. Lui dice che ha praticato parecchi sport, però come football lui dice nel senso del soccer, ovvero il calcio. C'è sempre questa problematica di traduzione e poi comunque baseball, nuoto, sci e ama soprattutto la neve. E visto che ieri è uscito il calendario dell'NFL, perdonatemi, ma gli ho chiesto perché squadra di football tifa e lui dice i Bills, ovviamente, e aggiungo io che nessuno è perfetto, neanche Magnus Sheffield, e quindi, piccolo approfondimento, gli ho chiesto la sua reazione a questo mercato spettacolare dei Bills che hanno ceduto Stefon Diggs, e lui dice che è un po' toccato perché è uno dei suoi giocatori preferiti, ma ritiene che la cosa più importante sia insistere sul quarterback Josh Allen. Quindi nella prossima parte passiamo al tema principale di questo incontro, perché Magnus Sheffield viene da un momento molto particolare della sua carriera. Lui lo scorso anno è caduto al Giro di Svizzera nella stessa caduta in cui ha perso la vita Gino Meder. E Magnus Sheffield ha subito un forte trauma cranico che l'ha tenuto fuori 3 mesi dalle corse, insomma ha avuto un lungo periodo di rientro, e quindi gli ho chiesto di raccontarci come è avvenuto il suo recupero. It was far from easy. I got to spend a lot of time with my family afterwards, which I thought was really important. But then I even was able to make a return to racing with the Tour of Britain. And I think that was also really nice with it being like the team's home race. I missed out on doing a Grand Tour last year, so I felt that the Giro this year made a lot of sense just with the progression. And okay, now I'm 22. And just, yeah, with my ambitions in my career, I thought this was a really good stepping stone for me. And yeah, so far I think I can be quite happy in my performances and also being a key support player for G and Timon and the team. E sì, è stato tutto fuorché facile, mi risponde Magnus. Ho passato parecchio tempo con la mia famiglia, credo sia stato però davvero utile e anche è stato molto bello rientrare al Giro di Gran Bretagna, che è la corsa di casa della mia squadra, la Ineos. È dispiaciuto per non essere riuscito a fare un grande giro lo scorso anno, ma dice che questo giro aveva perfettamente senso con la sua crescita, visto che ha solo 22 anni, ricordiamolo. E rappresenta una bella pietra di passaggio per le ambizioni che ha nella sua carriera e dice che fin qui non può che essere soddisfatto delle prestazioni di come ha potuto aiutare G, ovvero Geraint Thomas, e Themen, ovvero Themen Arensman. E dunque gli ho chiesto se da questo periodo un po' travagliato si sente essere uscito come una persona differente o anche solo un ciclista differente. I don't think so. I think I'm still Magnus. Like, I haven't changed that much, but I do think that I have a greater appreciation for racing and maybe life outside of cycling. Especially, yeah, not taking anything for granted, especially like this first year I had. I won 3 races and 2 of them were, I think, yeah, almost within the first couple months of turning professional with the team. So I think, yeah, that was quite a way to start, and I think I almost kind of fell into this way of like I think I took it for granted maybe, but now I really, really appreciate like the process of okay, putting in the hard work and then trusting that the results will come. Say goodbye to our listeners in Norwegian. Ha det bra og vi ses på TV. Thanks so much. Tusen takk. No, questo non credo, dice sempre Magnus Sheffield, dice non sono cambiato così tanto, però ho imparato ad apprezzare ancora di più le corse e forse anche la vita fuori dal ciclismo, a non prendere nulla per scontato. In questi primi 3 anni, dice, ho vinto 3 gare, due delle quali, perdonatemi, nei primissimi mesi da professionista, fa riferimento al 2022 quando vinse la Freccia del Brabante e nello stesso anno vinse una tappa al Giro di Andalusia e una al Giro di Danimarca. È stato un bell'inizio, ma forse ho dato per scontato che sarebbe andata avanti così. Adesso invece apprezzo molto l'idea di lavorare duro per dei risultati che so che arriveranno. Poi la nostra chiacchierata è stata molto lunga, non ve la faccio sentire tutta. Abbiamo parlato di sole, di creme solari, di sport, di freddo e di neve, perché Magnus è un grande amante della neve. Ci tengo però a menzionare che mi ha parlato a lungo di sua sorella Sunniva, che Magnus definisce una persona incredibile e che mi ha raccontato si occupa di scienze ambientali ed è stata, dopo essere stata a lungo in Alaska, adesso sta sulle isole Svalbard in mezzo agli orsi polari. Così mi ha definito il paesaggio il buon Magnus. E infine, come avete sentito, dopo che gli ho chiesto anche, come sempre, un consiglio di un altro corridore da intervistare e mi ha consigliato il nostro già amico Michele Onorè, che è un po' che non andiamo a trovare, per cui è anche un ottimo stimolo, gli ho chiesto quindi un saluto in norvegese che non sto a ripetervi, non so se vuoi ripeterlo tu, Pelacci, il saluto in norvegese. No, ma sto cercando tutto di Sunniva Sheffield. Ok, comunque era una cosa tipo Odebra e altre cose che insomma avete sentito. E allora, bene, auguriamo un futuro luminoso a Magnus Sheffield. Venendo a un futuro un po' più prossimo, cioè a domani, si arriva in Emilia, arriveremo a 100 e stamattina... 100. Ma cosa fai tu che non sai nemmeno a cosa si riferisce? A cosa si riferisce questa Semplicemente cosa? Era facile da ripetere, per cui sono... Vabbè, direi che... È vero, comunque. È vero che è facile da ripetere, ma... Ti manca, ok, il prezzo è giusto, ma poi un giorno ne parleremo. Adesso andiamo a parlare, o almeno andiamo ad ascoltare la chiacchierata con uno dei tanti emiliani in corsa in questo Giro d'Italia, Luca Covili della Bardiani, da Pavullo nel Frignano, che è ventunesimo in classifica generale e che abbiamo incontrato per parlare. Volevamo chiedere a lui qualcosa, certo, sulla tappa che arriva in Emilia. Abbiamo chiesto a un emiliano. Allora, io so solo che domani è piatta, quindi c'è poco da dire. Alla fine non sono proprio nelle mie zone, perché io sono di Modena e sono un po' lontanino, però comunque, vabbè, Riccione l'ho fatta tante volte con le partenze lì, perché la coppia Bartali spesso si fanno. Il resto si vede che è un po' ricco di curve, un finale un po' tortuoso, ma direi che non ci siano troppi problemi. Ma al di là del ciclismo, qualche zona dove ti ricordi un buon ristorante o cose del genere non c'è su questa strada? Vabbè, a Riccione sicuramente, i ristoranti migliori sono sempre nella zona lì, quindi... Tu vai o andavi al mare a Riccione con i tuoi amici? Sì, certo. A ballare? No, a ballare no, non sono un tipo da ballo, no. A mangiare, quindi? A mangiare sì, dai. Fuori stagione? Sì, anche durante la stagione. A mangiare cosa? Ah, pesce, pizza, quello che c'è. Tuo pesce preferito? Salmone. Ma sul percorso di tappa domani, fan club di Covili da qualche parte? Non lo so. Non forse, ti hanno avvertito? No, sicuramente ci saranno i miei genitori con un po' di familiari, mezzo fan club c'è, quindi saranno all'arrivo ad attendermi. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, crepi, grazie. Allora, in attesa, Michele, di assaggiare il salmone romagnolo, che a quanto pare è rinomato, almeno Covili ci ha detto così. Poi ne parliamo anche con Magnus Sheffield, magari li facciamo incontrare su questo tema. Dici qualcosa di più tu, visto che forse Covili non era il più adatto a raccontarci questa tappa, essendo modenese. Tu sei parmense, però essendo un pozzo di scienza parmense, non solo parmense, puoi dirci qualcosa di più sulla tappa di domani, che è la numero 13. Ma non sono convintissimo se arrivi in Emilia. Non so se avete presente quel famoso monologo sulla Romagna di Ivano Marescotti, in cui lui arrivava a dire, facendo molto ridere, che la Romagna era non solo la sua Villa Nova di Bagnacavallo, ma proprio lui, la Romagna era lui. Non so se Ferrara cosa c'entri con l'Emilia. Comunque una tua opinione è rispettabile, ma te ne assumi le responsabilità. Domani è il giorno, ragazzi, lo stavate aspettando, lo so, è il giorno della tappa piatta come la piadina. È il caso di dirlo, visto che si parte a Riccione e si arriva in provincia di Ferrara. A 100, in mezzo 179 km, molto piatti, traguardi intermedi a Villanova di Forlì, si passa anche da Bagnacavallo, poi un traguardo intermedio anche a Conselice. Tra questi due traguardi intermedi, intergiro a Lugo e sarà nuovamente volata. Non hai detto che è una tappa piatta, lo vuoi dire un'altra volta? Comunque diciamo che non ci sono salite. Non ci sono salite, va bene. Ok. Passiamo al pronostico. Allora, chi sarà il salmone che domani risale la corrente e batte tutti sull'arrivo di 100? Daniel Fribe mi ha fatto... Daniel Fribe? No. Sale in bici. No, fammi finire. Mi ha fatto notare che negli ultimi 7 o 8 Grand Tour, non ricordo il numero preciso, ma diciamo tot Grand Tour, 5 tappe sono state totalmente piatte, 3 di queste le ha vinte Alberto Dainese. Per cui domani mi gioco questo nome, mi gioco. Non ho capito, devo mettere dei soldi su Daniel Fribe quindi domani? Alternativamente sul Daino, vedi tu. Io invece la penso diversamente, perché oggi ho intercettato, mentre pogacciarieggiavo, ho intercettato altre news e mi hanno detto che Phil Bauhaus si sta riprendendo dopo che non è stato tanto bene, e quindi io me la sento. Domani dico Phil Bauhaus. Un animale, per se Dainese è il Dino, Phil Bauhaus, come che animale gli possiamo attribuire? I velocisti quest'anno è tutto ad animali. È Phil Bauhaus, chiaramente, scusate. Ottima, il pitbull di non sappiamo, non siamo pronti sulla sua località di provenienza. Io invece stavolta lo dico, il salmone di Buia, Jonathan Milan. Ah, è diventato salmone adesso, evoluzione ulteriore della sua immagine animale, ma io invece faccio un pronostico molto utilitario, perché pronostico il prossimo intervistato, che è un velocista non a caso, è arrivato terzo nella tappa di ieri a Francavilla al Mare. Daniel Fribe? No, Daniel Fribe ieri non è arrivato terzo da quello che mi risulta, ma terzo è arrivato Giovanni Lonardi della Polti Cometa, che avete sentito in apertura di puntata a introdurci in modo, come al solito, non felice, non soddisfatto ed entusiasta, ma invece è stato molto più simpatico nella chiacchierata di questa mattina che adesso vi facciamo ascoltare. Giovanni Lonardi, buongiorno, come stai? Ah, bene, dai, contento ancora per ieri, morale alto e vediamo di fare una buona gara anche oggi. Insomma, la mattina dopo il risveglio dopo un terzo posto in una tappa del Giro, com'è? Ah, siamo tutti contenti, no? Il morale è alto, come ho detto, anche tutta la squadra sta bene. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati, no? Di venire qua almeno a trovare, il sogno sarebbe una vittoria, trovare un podio era un obiettivo, quindi siamo riusciti due volte in 12 giorni, quindi siamo contenti e vediamo, manca ancora qualche tappa, sicuramente abbiamo le gambe per far bene, quindi guardiamo avanti. Hai detto che il sogno sarebbe la vittoria, nello specifico tua. Cosa ti manca secondo te per fare quel passo in più e battere tutti i velocisti? Ma è difficile rispondere, sai, a volte serve quel pizzico di fortuna, a volte quel pizzico di gambe in più, servono tante cose nello stesso momento, e penso deve essere un giorno perfetto, no? per battere gente come Milan, Merlier, questi qua sono i numeri uno al mondo, no? Delle volate, per me che sono un velocista sicuro non è semplice, però non si sa mai, no? Siamo sempre lì, non si molla e si sfrutta al massimo possibile, un giorno chissà, magari andrà bene. Tu sei un velocista puro ormai adesso, perché fino a qualche anno fa stavi ancora cercando di capire cosa volevi diventare, ormai sei un velocista puro o no? Secondo me non proprio puro, io non mi sono mai reputato un velocista puro, però adesso il livello è in salita, una volta mi difendevo bene, adesso mi difendo abbastanza bene, però sai, il livello qui è altissimo e non è facile tenere, magari quando parte gente come Alaphilippe, questi qua che vogliono fare la tappa dura come oggi, non so, però io ci provo sempre, dura o pianura, quindi niente. Ti rendi conto di avere ancora qualche passaggio da fare nella tua crescita o hai detto ok, questo è il mio massimo? Ma no, secondo me c'è sempre da migliorare, no? Io penso quello, ho avuto qualche anno difficile, penso e credo io anche un po' sfortunato all'inizio quando sono passato, purtroppo è venuto a mancare il mio procuratore appena sono passato professionista e la mia squadra, la Nippo, dove ero, ha chiuso, è stato un po' difficile, poi pian piano io credo che anno dopo anno sono migliorato e credo che ancora per almeno 2-3 anni qualcosa da migliorare c'è, poi adesso come hai detto te sono tutti giovani, già da 18-19 anni vincono e è cambiato un po' tutto, no? Io sono riuscito a fare un anno o due, i primi due secondo me che era ancora vecchio stile e poi adesso veramente c'è da curare ogni dettaglio, però secondo me se uno fa la vita e ci crede si può sempre migliorare qualcosina. Senti, ti abbiamo visto molto attivo nel giorno di riposo anche con la musica, abbiamo visto questo video, con la componente in particolare spagnola. Voi italiani aggiungete una componente italiana musicalmente alla squadra o comandano loro? No, è che a me piace molto la musica latina, no? E anche qui in bus l'ascoltiamo molto, diciamo che siamo ben amalgamati, no? Però per la musica resta la parte spagnola. A parte Jay Wheeler, chi c'è nella playlist? Ma tutti, non c'è uno preferito, Ozuna, tutti. tutti, niente di... Non abbiamo uno preferito, ma buttiamo dentro tutto. Senti, un'ultima cosa, hai un soprannome? Perché Milan è il toro, Coi è il ghepardo, tu sei un animale, cosa sei, il mastino essendo di Verona o che cosa? No, a me mi chiamavano Leone ancora quando sono passato professionista, ma un po' perché sono Lonardi, Lona, Leo, qualcuno mi chiamava Leo da dilettante, un po', ma... Non ho un soprannome vero e proprio. Il leone però è bello, dai. Sì, non è male, dai. Grazie mille. Grazie a te. E allora abbiamo scoperto che Lonardi aveva un soprannome di Leone, il leone immagino di Verona, ma ci farà sapere se non è così. A proposito di animali, paragonandosi adesso e alludendo al recupero dopo la tappa di oggi, Matteo Trentin ha postato sui social la gif di un orso che entra in un frigorifero. Non so che cosa vuole dirci questa cosa sul futuro del Giro d'Italia. Secondo me non moltissimo, però. Vuol dire che come al solito tu eri su Twitter. Sì, ma comunque non sono convintissimo che Trentin volesse mandare un messaggio sul futuro del Giro d'Italia. Però potrebbe essere una nuova rubrica, non per quest'anno, l'anno prossimo, la Trentinomanzia, leggendo i post di Matteo Trentin per interpretare il futuro del Giro d'Italia. Questa è un... segniamocela per il domani. Ma io invece vi suggerisco di segnarvi il titolo della canzone che stiamo per ascoltare, poi sarà disponibile dopo la pubblicazione del podcast anche sul canale YouTube di Luca Pedalini, che esiste per davvero. Ci sono già Tutti vogliono un Bincio e La vita di Michele, e adesso è arrivato il momento di farvi ascoltare il nuovissimo singolo, il terzo estratto dal suo primo album. È il primo, è un esordiente. È un album che vuole... Io pensavo avesse già fatto delle collaborazioni con gli ZZ Top. Non credo, non so molto altro, ma non credo. Ci ascoltiamo per la prima volta tutti insieme il suo nuovo singolo. Eccolo qua. Ello veloce, fa le strade di città, parta sulle due ruote, la regina dell'estate, i mari luccica. Sole scintillante. Ma io denunzio. Siamo pronti a partire. Siete pronti a partire? Lancia il microfono in un podcast diverso. È bellissima. Parla di avventure. Senti che groove. Il vento sussurra. Molto meglio di quella su Pelacci. Il suo re. Adesso mi sento in colpa per la Filippo. È meraviglioso. È anche un po' sigla di anime, di cartone animato. Sì, sembrava anche a me molto cartone animato, però funziona. Funziona, secondo me questa è quella che avrà più successo, anche perché è già un po' anche hit dell'estate, ha un po' di... Così, sì, è fresca, di, sai, fresca. Si fischiettano secondo me nei bar mare. Di Martin Sicuro questa estate va a raffica. Vedremo se andrà a raffica anche nei bar e negli alberghi di Gabicce Mare, dove saremo questa sera in attesa della tappa, Marta, di domani. Marta. Adesso la cantiamo per tutto il viaggio di ritorno. Voi, perché io devo montare questo podcast. Sì, ma prima di... saremo sbronzi di Moretta, per cui chissà. Prima di montare il podcast e andarci a bere la Moretta obbligatoria qui a Fano, vi ricordiamo che se volete potete trovarci sui vari social, Twitter o ex Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, come Bidon e anche come Al Vento, indifferentemente. Volevo raccomandare la newsletter di Al Vento soprattutto, perché la fa Ale Autieri, che si sbatte molto e è un grande, e domani, appuntamento per chi vuole svegliarsi presto al mattino per pedalare. No. No? Io no. tu puoi fare quello che ti pare. Panoramica del San Bartolo, fantastica domattina. Fantastica, non ho alcun dubbio mai quanto sarà il mio letto, che se anche dovesse essere scomodo sarà sicuramente meglio della panoramica di San Bartolo. Nella newsletter, non l'abbiamo mai detto, ma ogni giorno c'è un articolo vergato a mano da Michele Pelacci. No, ricordiamolo. Anche un'intervista. Ed è la bieca scusa che Michele Pelacci usa per farmi guidare. Quindi leggetela almeno, eh. E ci tengo anche a ricordare che i nostri amici di Shimano stanno iniziando a condividere le lezioni del Sensei sui loro social, per cui Michele, se vuoi ripassare, puoi seguire i social di Shimano Italia e così, insomma, il nostro giro continuerà a insegnare qualcosa, soprattutto le lingue. Ci mettiamo in moto, anzi in furgone. Non abbiamo detto il titolo del singolo, che è Le avventure di Marta. Se volete cercarlo... Ma siccome si capiva si, chiama, dal... si capiva? Sì, no, sì, adesso sì, l'ho detto e sarà disponibile mentre ascoltate anche il podcast. È anche un po'... un po' un vedo non vedo questo, questo titolo. Luca Pedalini qui ha strizzato l'occhio al pubblico del gossip, perché sa che poi il Giro d'Italia è essenzialmente gossip e c'è cronaca rosa. Cronaca rosa, esattamente. E soprattutto quindi... quando, cioè, dopo la vita di Michele, Le avventure di Marta, cosa sta cucinando su voi due Luca Pedalini? Non lo sappiamo, lo scopriremo nei prossimi giorni. Forse. Adesso finalmente chiudiamo questa puntata dopo 20 minuti di chiusura, salutiamoci davvero, ci risentiamo domani dove a... Domani saremo a 100.